Bette bao lord. La voce flautata, i modi pacati, un garbo e un contegno da grandama cinese che parla inglese, un'espressione perfettamente sorridente e serena. Bette bao lord è una donna affascinante. Bette, nata alla fine degli anni 30 a Shanghai, racconta in un'intervista di essere salita coi suoi genitori sulla nave per l'America a 8 anni, proprio in pieno conflitto cino-giapponese, quando il padre era stato mandato negli Stati Uniti dal governo cinese, il Kuomintang, per acquisire conoscenze tecnologiche da usare in campo militare. Ma poiché nel frattempo Mao e gli eserciti comunisti avevano vinto la guerra civile contro il Kuomintang di Chiang Kai-shek, la famiglia Bao rimase in America come rifugiata politica. Quando salì sulla nave, ricorda, Bette portava le trecce e l'oceano era la prima distesa d'acqua che vedeva dopo la laguna di Giada fuori da casa sua, in Cina. Il primo impatto con la cultura occidentale fu a Brooklyn, dove andarono a vivere lei e la sua famiglia. Con la sua voce carezzevole come la seta, Bette racconta garbatamente all'intervistatore che fu fortemente impressionata quando la sua insegnante americana le chiese per la prima volta la sua opinione. In Cina mai agli studenti veniva chiesta opinione, poiché erano studenti. In America, Bette si laurea in scienze politiche e diviene la moglie di Winston Lord, ambasciatore americano in Cina sotto Kissinger. Col marito, Bette torna in Cina per 3 anni. Sappiamo che la figura di Kissinger, per la quale il marito di Bette lavorava, è stata molto discussa e implicata anche in scandali grossi come i golpes argentino e cileno. Non siamo in grado di dire in che modo Bette sia stata consapevole di quanto faceva il capo di suo marito. Nelle interviste lei ne parla in termini di massimo rispetto. All'intervistatore racconta che la promiscuità in cui si è costretti a vivere in Cina, dove in spazi ridottissimi convivono fino a 3 generazioni, obbligano le persone a indossare maschere per poter convivere fingendo che vada tutto bene. Forse l'abilità di emanare perfetta serenità è una caratteristica fissata nel DNA delle razze asiatiche, poiché dal sorriso di Bette non traspare alcuna emozione. La magica bellezza del suo primo romanzo, Luna di Primavera, uno di quei romanzi che fin da subito prendono l'attenzione e il cuore che non si vorrebbe mai smettere di leggere e che la scuola delle donne propone, è incontestabile. E la Cina, che fa da cornice alla trama, è una Cina storicamente reale. La genesi del romanzo è di per sé già un romanzo. L'ho scritto proprio quando rincontrai mia sorella dopo una separazione di 17 anni, racconta Bette all'intervistatore. Lei era neonata quando ci separammo e ora davanti a me in aeroporto stava una giovanetta. Fu lei a darmi l'ispirazione. Volevo qualcuno che scrivesse quella storia, poiché negli anni 60 la gente sapeva molto poco della Cina. Luna di Primavera è una ragazza che assiste, senza dare una colorazione politica, al periodo in cui la Cina cercò di modernizzarsi, dalla fine dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento, ossia dalla Cina pre-rivoluzionaria sino alla visita di Nixon. Luna di Primavera è una fanciulla che inizia la sua vita chiusa nelle mura della grande casa del suo clan, i Chang, coi piedi fasciati alla crudele maniera cinese per rimpicciolirli fino alla dimensione di un pugno, e poi vive i movimenti politici cinesi. Ma non c'era nessuno scrittore che parlasse abbastanza bene il cinese da poter raccontare questa storia, continua Bette. Così il libro l'ho scritto io. Avevo 23 anni, ho lasciato il mio lavoro e mi sono gettata incoscientemente nella scrittura. Scrivere Luna di Primavera mi ha preso 6 anni, racconta ancora l'intervistatore. È stato il mio primo libro ed è andato bene. E forse, possiamo aggiungere noi, dato l'ambiente in cui viveva, il successo non è stato poi così difficile da ottenere come moglie dell'ambasciatore americano in Cina. Ad ogni modo, Betta ha ricevuto ben 7 lauree ad honorem ed è stata diverse volte premiata per il suo impegno per i diritti umani. Tra gli altri premi ha ricevuto il prestigioso Eleanor Roosevelt Award for Human Rights. Prima di affrontare il suo secondo libro, ha lasciato passare moltissimi anni, poiché per sua stessa missione con quel primo romanzo che ebbe tanto successo, le era quasi sembrato di aver imbrogliato il pubblico. Ma una scrittrice non si identifica solo da ciò che scrive, bensì da come lo scrive. E E nel modo di scrivere di Beth c'è tutto il profumo, la finezza e le meravigliose sfumature della complessa e a volte sfuggente cultura asiatica. Dopo Luna di Primavera ha scritto Il cuore di mezzo, che prende in esame la storia cinese dagli inizi del Novecento fino alla rivolta di Piazza Tiananmen, e infine Voci di Primavera. La sua è una vita ricca e felice, come lei stessa dice in un'intervista, libera da conflitti e delusioni. La Scuola delle Donne è lieta di presentare di Bette Bao Lord Luna di Primavera. Mondadori Editore, traduzione di Silvia Stefani. Da Devana, buon ascolto.